ombre dietro noi, ombre tra di noi, ombre nei pensieri, ombre nelle azioni, ombre sempre insieme a noi. Ombre frasi vaghe, ombre negli eventi, ombre negli affetti, ombre nei sorrisi, ombre indistinte tra di noi. Ma non nasce ombra se non c'è luce che la crei. Allora esalto luci che sbiadiscono ombre. Thank you.